31 marzo al 2 aprile arriva il Festival di Letteratura Working Class organizzato da Edizioni Allegre e anche dal collettivo di Fabbrica GKN. Io sono qui per parlarne con il direttore artistico. Un buongiorno ad Alberto Prunetti, ciao. Buongiorno, ciao. Questo sarà il primo festival in Italia dedicato a questo genere letterario. Ti volevo chiedere, Alberto, come nasce l'idea di portarlo in Italia, ecco. Ah, sì, io, per quel che ne so io, c'è stato solo un precedente nel 2021 in Inghilterra, a Bristol, in cui tra l'altro fui invitato anch'io come, insomma, uno dei pochi europei. È stato un evento molto molto interessante in un paese che ovviamente è un paese di punta per la letteratura working class da sempre, insomma dai tempi di Alan Sillitt negli anni 60 fino a Irving Welsh, che è un autore di working class, fino all'ultima onda di autrici come ad esempio Cash Carraway, che ha scritto l'autrice della Porca Miseria, che abbiamo tradotto da pochi giorni in italiano, che sarà presente al festival. Da quell'idea, insomma, ho iniziato a coltivare, dopo la visita, l'idea di fare un'esperienza simile anche in Italia, perché insomma, senza avere alle spalle le risorse, il sostegno dell'editoria, dei lettori che c'è in Gran Bretagna verso la letteratura fatta da persone di classi sociali non privilegiate, stavamo provando a fare qualcosa appunto con la collana Working Class. Non è stato facile, e poi in qualche maniera per un processo di convergenza culturale le nostre strade si sono intrecciate con l'avvertenza del GKN, e quella solidarietà che non arrivava dall'industria del libro è arrivata dal basso, dalla classe operaia appunto. Per sostenere l'avvertenza GKN, a un certo punto il collettivo di Fabbrica ha creato un suo sottoramo, si occupa di immaginario e di eventi culturali, che era Convergenza Culturale. Io tra l'altro durante un comizio, uno dei primi, forse il primo comizio in Piazza Santa Croce, subito dopo che erano arrivati i messaggi di che licenziavano gli operai, sentì uno dei leader della protesta, Dario Salvetti, dire questa cosa, no? I giornalisti che ci intervistano, noi diciamo che ci va bene sì raccontarvi le nostre storie, ma noi non siamo qui per raccontarvi le nostre storie, noi siamo qui per fare la nostra storia, per fare la storia. E questa idea di fare la propria storia, di raccontare le proprie storie da soli, senza limitarsi a raccontarli a persone che fanno da megafono e da interpreti, raccontare la classe lavoratrice da dentro, è alla base di questo progetto. Quindi in qualche maniera ci siamo, abbiamo avuto un sostegno di 300, un sostegno economico consistente di 300 solidali che ci hanno dato chi 10 euro, chi 500 per riuscire a fare tutto questo, perché servono soldi per fare festival letterari, certo. Purtroppo, quindi dal 31 di marzo al 2 di aprile per 3 giorni saremo questo primo evento in Italia, che sarà una sorta appunto di incontro tra la letteratura working class e speriamo anche quei lettori che di solito non possono permettersi magari di partecipare a certe più illustri vetrine dell'editoria, anche per una questione economica. Da noi gratuito, e ci stiamo organizzando tra l'altro uno spazio prole dedicato a chi ha i figli, perché tante persone di classe lavoratrice non possono andare al cinema, al teatro, proprio perché non si possono permettere il babysitting, e noi faremo uno spazio di child care che durerà per tutto il tempo del festival, proprio per permettere alle persone comuni di partecipare al cosiddetto consumo culturale. Anche il luogo in cui poi si svolgerà il festival è particolarmente significativo, no Alberto? Sì, perché si tratta appunto di un luogo che è stato emblematico. Dopo anni e anni ci dicevano che la classe lavoratrice non esiste più, che le fabbriche non ci sono più, sembrava che i telefoni si facessero da sole, le macchine si facessero da sole, ma anche proprio nella comunicazione, no? Che fanno le aziende quando devono far vedere le fabbriche, le svuotano degli operai e fanno vedere solo le macchine, e invece quando poi si spenge il tasto REC dei video, gli operai tornano a lavorare. Gli operai ci sono, sono tanti, stanno ai margini del discorso pubblico, perché più tiene una persona ai margini dell'immaginario del discorso pubblico, più riesce a opprimerla e sfruttarla meglio, e non è un caso in questa maniera noi stiamo cercando di far rincontrare la fabbrica e la città, gli operai e le persone comuni che esistono e che magari non si chiedono mai da dove vengono le cose che si portano addosso, gli attrezzi, le macchine, le automobili, i computer, tutti quei sistemi di interfaccia alla realtà che di cui siamo circondati, che sembrano prodotti e che ci arrivano direttamente dalle mani dei grandi capitalisti, che invece ci arrivano da persone comuni, tutti i giorni stanno 8 ore attaccate a una linea, ecco. E questa è l'idea alla base del nostro progetto. Alberto, come ultimissima domanda, al volo qualche tema che si tratterà in questi 3 giorni? Abbiamo cercato in qualche maniera di non fare il solito discorso solo su questioni di soldi, economia e salari, che sono cose importantissime e ne parleremo, ma abbiamo cercato appunto di intrecciare, diciamo, le cosiddette politiche dell'identità con le politiche di classe. E quindi, per esempio, ci sarà un dibattito sul tema della queerness e della working class, cercheremo di affrontare tematiche che intrecciano femminismi e classe operaia, ci sarà un panel sul tema della immigrazione, blackness, classe lavoratrice, e queste questioni per noi sono in qualche maniera assolutamente fondamentali. Queste sono, diciamo, le 3 linee più importanti. Poi ovviamente si lavora anche per filoni e per si tratta di letteratura e tematiche di sui generi letterari. Ci sarà per esempio un panel dedicato alla poesia operaia, e soprattutto ci saranno anche dei momenti performativi con alcuni pièce teatrali e un reading, che è una cosa a cui tengo molto, ispirato a un romanzo, memoria, scritto in versi, in prosimetro, molto molto bello, dello scrittore europeo francese Joseph Pontius, purtroppo scomparso molto giovane, a 42 anni, e questo libro molto molto forte sarà portato, diciamo, letto in un reading dagli operai della fabbrica GKN. Tutto questo tra venerdì e domenica. Volevo chiudere con un'ultima cosa. Certo. Prima del festival, una settimana prima, sabato 25, ci sarà la manifestazione nazionale a sostegno degli operai di GKN. Ecco, il festival e questa manifestazione non sono due cose diverse, sono parte di un'unica lotta, quindi chiediamo a tutti e a tutte di provare a mobilitarsi per entrambi questi fine settimana, ecco, per stare a fianco degli operai GKN nella manifestazione che attraverserà Firenze il 25 e poi per andare a trovarli a Campi quando parleremo di letteratura anche assieme a loro. Grazie ancora, Alberto. Grazie a voi.